Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Buon pomeriggio e buona domenica. E voi lo sapete che chi pedala ogni settimana 150 minuti è fino a 6 volte più sano di un automobilista e che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità le probabilità di morte per chi usa la bici 3 ore a settimana sono inferiori di ben il 28% rispetto a chi non la usa. Oggi dunque parliamo dei benefici della bicicletta sulla salute. Ogni attività sportiva naturalmente produce effetti positivi, ma il pedalare presenta alcune peculiarità. Ne parliamo con Amargatti, direttore della scuola di formazione del portale bikeitalia.it. Partiamo dalla prima cosa, che la bicicletta è un'attività di tipo aerobico, quindi include il cuore, il sistema cardiovascolare, e quindi aiuta a mantenere sotto controllo quella che è sia la pressione arteriosa che tutto quello che può essere correlato con i problemi cardiaci. Oltre a questo è un'attività in scarico delle articolazioni. Cosa significa questo? Che quando noi corriamo, per esempio, le nostre articolazioni hanno gli impatti con il suolo. In bici invece noi come se galleggiassimo sollevati dal nostro telaio. È la bici che assorbe gli impatti per noi e questo salvaguarda le articolazioni. Per cui è estremamente idonea per quelle persone sovrappeso, per esempio, che devono fare attività fisica, ma per la loro stazza, la loro mole, non possono fare un'attività fisica con alti impatti, appunto per questo problema. Per cui la bici si pone come una risposta per questa categoria di popolazione. Oltre al fatto che la bici è un gesto controllato, quindi non c'è bisogno di imparare delle tecniche difficili, e permette a chiunque di iniziare, e il gesto può essere modulato, cioè l'intensità della pedalata può essere perfettamente calibrata sulla capacità atletica della persona, che sia un atleta o che sia una persona cardiopatica, diabetica o solamente sedentaria. Ecco Omar, quali consigli si possono dare ad una persona sedentaria e magari anche un po' più in là con gli anni per poter cominciare, insomma, ad allenarsi con la bicicletta? Quale può essere il primo approccio? Diciamo che la prima cosa che dovrebbe fare una persona, che parliamo di over 65, un pensionato che ha magari qualche piccolo problema fisico e vuole iniziare ad andare in bici, la prima cosa è una visita medica col proprio medico di base o una visita medico sportiva non agonistica, facendo un piccolo test da sforzo e capire quali sono le soglie cardiache. Dopodiché deve andare a fare dovrebbe fare almeno mezz'ora, 30 minuti al giorno di attività aerobica in bici a un'intensità, si dice, moderata, cioè un'intensità che permette di mantenere una conversazione come stiamo parlando noi adesso, quindi una tranquilla conversazione, e farlo praticamente tutti i giorni, perché all'inizio molte persone, quando sono prese dall'entusiasmo dell'attività fisica, tendono ad allungare molto la durata, quindi il volume dell'allenamento. E in realtà all'inizio è molto più importante un altro parametro, che è la densità, cioè allenarsi frequentemente. Prima bisogna imparare ad allenarsi frequentemente e dopo ad allenarsi tanto, per cui una persona anziana è meglio che tutti i giorni al suo passo, quindi al passo che gli permetta di mantenere una corretta conversazione, faccio un'uscita in bicicletta. Se poi ormai gli smartwatch sono la norma, fai conto che ne ho regalato uno io a mio papà che ne ha 74, anche lui è perfettamente in grado di leggere la sua frequenza cardiaca, grazie al test da sforzo è possibile capire qual è la frequenza cardiaca di riposo e la frequenza cardiaca di riserva, si dice, che è la frequenza cardiaca massima meno la frequenza di riposo, usare delle soglie per dire ok, questa è l'intensità che va tenuta, quindi essere sempre più efficienti e soprattutto sempre più precisi nell'allenamento. Omar, sfatiamo un luogo comune: si pensa che con la bicicletta si potenzino, si tonifichino solo gli arti inferiori, invece c'è anche uno sforzo da parte degli arti superiori, della parte superiore del corpo, no? Assolutamente, allora le gambe sono quelle che permettono di spingere, quelle che noi vediamo dinamicamente, vediamo muoversi, quindi siamo convinti che siano solo le gambe a spingere. In realtà, se non c'è tutto il tronco superiore del corpo che stabilizza, è molto difficile che poi possiamo avere una pedalata efficiente. Questo cosa significa? Che le gambe sono attaccate al bacino, il bacino è attaccato a tutta la parte superiore. Se le gambe si muovono in maniera fluida, ma sopra non c'è niente che tiene fermo il bacino, allora questo perderà di stabilità e si avrà anche una riduzione della capacità di pedalata. Fai conto che noi ci occupiamo di visite biomeccaniche e molto spesso il mal di schiena in amatori o atleti professionisti è dovuto a una mancanza di stabilità di quello che è il core, cioè gli addominali, chiamiamoli proprio in maniera molto molto semplice. Per cui un ciclista in bicicletta ha una contrazione dinamica della parte inferiore del corpo, quindi delle gambe, ma tutta la parte superiore è una contrazione pressoché isometrica, cioè una contrazione muscolare di basso tono ma mantenuta costante nel tempo. Per cui anche un ciclista che allena solo le gambe anche fuori stava sbagliando, perché deve allenare anche la parte superiore del corpo. Anche se a noi sembra immobile, in realtà i muscoli non sono spenti ma stanno lavorando. Senti, è vero che la bicicletta aiuta a prevenire molte patologie? Assolutamente, come tutto l'esercizio fisico, molte persone si rivolgono all'esercizio fisico quando già hanno problemi. Per cui in realtà l'esercizio fisico, inteso come esercizio fisico di tipo aerobico o anche di allenamento della forza, serve per prevenire piuttosto che per curare le malattie. Questo perché? Perché noi siamo evoluti come esseri umani per muoverci. Cioè, è solo la nostra epoca, quella della super sedentarietà, per tutta la nostra storia, da quando siamo state scimmie che sono scese dagli alberi, noi ci siamo mossi per sopravvivere, per procacciarci il cibo, per scappare dai predatori, e questo è nel nostro DNA. Per cui la bici assolutamente permette di ridurre e di prevenire le malattie. Fai conto che uno studio inglese ha dimostrato che chi va regolarmente in bici al lavoro ha meno probabilità di avere degli infarti acuti del miocardio. Oppure una delle altre cose che succedono è che noi, andando in bici per esempio, consumiamo glucosio. Il glucosio, cioè lo zucchero, è il carburante preferito dai nostri muscoli perché è molto, è molto rapido da utilizzare. Questo cosa significa? Che la quantità di glucosio nel sangue di uno che fa attività fisica è molto più bassa di un sedentario, e quindi la condizione di prediabete, per esempio, è più favorevole, nel senso che la glicemia a riposo è più bassa. Questo perché? Perché a furia anche di utilizzare il glucosio i muscoli diventano più bravi a farlo, mentre un sedentario ha dei muscoli che lo captano in maniera più inefficiente. Per cui assolutamente tutte quelle patologie croniche che sono non trasmissibili, come malattie polmonari, malattie, il diabete, l'ipertensione arteriosa, i problemi cardiovascolari, ma anche problemi come la depressione, l'ansia, eccetera, possono essere prevenute con la bicicletta. Anche a livello del cervello, quando noi facciamo attività fisica, il nostro cervello secerne delle speciali molecole che sono le endorfine, ed è stato visto che le endorfine, da un lato, migliorano il tono dell'umore, quindi vanno bene anche per casi di depressione, eccetera, e dall'altro secernono delle proteine che migliorano proprio l'efficienza del cervello. Ed è stato visto che in persone affette, per esempio, da Alzheimer o in persone affette da demenza senile, l'attività fisica in bicicletta migliorava l'ippocampo, cioè dove noi abbiamo la memoria. Le persone che facevano attività fisica in bici regolarmente avevano una memoria più forte di chi invece non lo faceva. Per cui andare in bici permette di prevenire, mantenere e curare un sacco di malattie e di condizioni dovute al nostro eccessivo benessere. La bicicletta elettrica, tu come la vedi per quanto riguarda gli effetti benefici sull'allenamento sportivo vero e proprio? Partiamo dal presupposto che secondo me la bici elettrica è la chiave per mettere in bici gente che della bici non gliene frega niente. Fai conto che ci sono stati degli studi in Norvegia che hanno dimostrato che quelli che si chiamano MET, che è identifica l'intensità dell'attività fisica, in bicicletta in bicicletta, chiamala muscolare, in bicicletta elettrica, era praticamente paragonabile, erano veramente poche le differenze. Parliamo da sedentari, quindi un sedentario che sale su una bici elettrica o che sale su una bici muscolare, l'intensità che il suo corpo riesce a reggere è la stessa. Altra cosa, la bici elettrica è più pesante della bici muscolare, ed è stato visto che la forza muscolare sviluppata dai sedentari che andavano con la bici elettrica era maggiore, perché dovevano gestire maggior peso. Per cui a livello della salute, che un sedentario, non stiamo parlando di atleti, non stiamo parlando di gente che ha storia di attività fisica, stiamo parlando di completamente sedentari, senza, che non abbiano mai fatto sport, sia che vanno con una bici elettrica, sia che vanno con una bici muscolare, i benefici per la salute sono pressoché identici, per cui assolutamente via libera alle bici elettriche. Pedalare dunque fa bene, aiuta a prevenire alcune malattie, ma anche a migliorare lo stato psicofisico di chi soffre di alcune patologie. In particolare, numerosi studi hanno evidenziato gli effetti benefici del pedalare sui diabetici. Ne parliamo con Gerardo Corigliano, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Diabetici. Il gesto sportivo della bici è la pedalata, che si ripete una dopo l'altra. È un esercizio in qualche modo programmato, programmabile, con un dispendio energetico anche abbastanza elevato, ma senza grandi variazioni dell'intensità del dispendio energetico tra un momento e l'altro dell'attività sportiva. E quindi questa differenza distingue l'attività aerobica, la bici, dall'attività anaerobica, per esempio gli sport di squadra fatti di scatti ripetuti. L'attività aerobica è particolarmente favorevole nel diabetico perché è caratterizzata da un consumo principale, diciamo, di grassi, di acidi grassi, e intorno al 60%, 60-70%, e 30-40% di zuccheri. Questo che sembrerebbe un paradosso per il diabetico è invece particolarmente favorevole perché produce un abbassamento della glicemia, ma abbastanza costante e prevedibile, e quindi consente di monitorare che l'abbassamento progressivo della glicemia, tenendosi però al riparo dalla temibile crisi ipoglicemica. Quindi fondamentalmente è proprio l'atto sportivo della bici, una pedalata dopo l'altra, che consente all'organismo, dal punto di vista metabolico, di avere un abbassamento lento e progressivo della glicemia e quindi proteggere da eventi acuti. Questo è il riflesso sul metabolismo. Sul sistema cardiovascolare, questo tipo di attività non espone il cuore di un diabetico a un stress violenti, ma anzi lo allena a sopportare la fatica, ad ottimizzare il consumo di ossigeno, a ottimizzare, diciamo, la resa energetica dei nutrienti che si bruciano a livello muscolare. C'è un terzo aspetto che indirettamente fa bene al diabete, cioè l'aspetto escursionistico, il pedalare all'aria aperta in pieno ossigeno. Mi riferisco naturalmente all'aspetto escursionistico della bici e quindi a quel rilassamento mentale che dal punto di vista del diabete fa molto bene, perché riduce i livelli di adrenalina, e quindi, poiché l'adrenalina è l'ormone che morde il cuore e alza la glicemia in modo acuto, noi riduciamo anche questi fattori di rischio cardiometabolici. Bene, noi ci fermiamo qui, riascoltateci sempre su podcast dal sito di Radio 24, scriveteci se volete a rotalibera@radio24.it. Buona domenica e buone pedalate a tutti.